Lo so che vuoi baciarmi, quindi kissmi e poi lasciami. Sono un bastardo che dice di tutto per portarti a letto. Sono un campione di questo e vengo eletto. Ti vengo in petto, agapo, cazzo, eretto. Ti metto angolo retto, facciamo la geometria. Così l'ho imparato, adesso faccio una magia. Vengo e vado via, gioco a tris, dopo kiss, 4 mif. Ti piace bianco, baby milk. Questo pezzo va su XXX. Caso mai con te che mi fai uno strip. Mentre mi abbassi lo slip, mentre ti abbassi, e sì, forse sulle guance, seduto davanti al plasma, forse guardando documentario. Mi viene l'ansia, 3 spruzzi di ventolina, asma, spruzzi di cocaine sulla pancia, spruzzi a non finire, ti lavo la faccia. Zero affetto, deserto, si ammetto che sono schietto. Ti metto sul piedistallo più bello, perché con voi ci tengo, ma non l'ho mai detto. Dismi, dammi, prendimi, portami lontano da questo stress. Ti proteggo come fa Rex, sto di guardia su di te con la back. Sei una delle tante mie ex. Dismi, dammi, prendimi, portami lontano da questo stress. Ti proteggo come fa Rex, sto di guardia su di te con la back. Sei una delle tante mie ex. E pirogando one, sono il numero uno. Fumo ganja, tu sgancia, lancia la tua faccia invidia gialla. Ah, baby, scrivimi quando sono fuori. Se non ti rispondo perché di sicuro nella testa c'ho i tuoni. Ti ammetto che non mi stanno simpatici i tuoi. Palleggio la mia vita come un pallone. Per farlo mi devo fumare un cannone. Per realizzarlo ci impiego delle ore. Tu vieni con me, ti faccio viaggiare, con un bacio innamorare. Trasformo tutto come una fiaba e tu sarai la principessa, il pezzo principale. Io il rapper che ti vuoi sciupare, il tuo argomento principale, sono micidiale. Tu kiss me e io parto in missione nello spazio spaziale. Ha, rime senza senso, un po' sensate, un po' stronzate. Tu fai la stronza, offri la tua pussy quando stai sbronza. E dopo dici mi trattano come una troia, un po' se rozza. Ci penso quando ti inchini, per il resto ora si tromba. Dismi, dammi, prendimi, portami lontano da questo stress. Ti proteggo come fa Rex, sto di guardia su di te con la back. Sei una delle tante mie ex. Dismi, dammi, prendimi, portami lontano da questo stress. Ti proteggo come fa Rex, sto di guardia su di te con la back. Sei una delle tante mie ex. Kiss me, kiss me, baby kiss me. Baby kiss me, kiss me. Kiss me, baby, baby, kiss me. Baby, kiss me. Baby, kiss me. Kiss me, baby, baby, kiss me. Kiss me, baby, kiss me.